Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio Conte conferma possibili riaperture già ad aprile se avremo il via libera degli scienziati. Decreto Cura Italia all'esame del Senato, il governo pone la fiducia. Riprendono oggi pomeriggio i lavori dell'Eurogruppo, Francia e Germania sembrano più vicini, il Parlamento olandese si esprime contro le obbligazioni europee. Truffa da 15 milioni di euro per la fornitura di mascherine allo Stato. Arrestato un imprenditore di 41 anni, primo caso di reato per Covid. Moto mondiale, possibile cancellazione per gli organizzatori è l'ultima ratio, ma non è esclusa. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie su Radio 24. A metà giornata, emergenza coronavirus naturalmente in primo piano. Avete sentito dai titoli, il presidente del Consiglio Conte, parlando in una intervista alla BBC, ha confermato che alcune attività potrebbero ripartire già nel mese di aprile. Intanto il decreto Cura Italia è in Senato per il voto di approvazione e in assenza di un accordo tra maggioranza e opposizione il governo ha deciso di porre la fiducia. La richiesta della fiducia al Senato sul decreto Cura Italia inasprisce i contrasti tra maggioranza e opposizione, così il centrodestra non voterà sì al provvedimento e si spezza il fronte comune. È la prima volta che il governo pone la fiducia su un provvedimento contro la pandemia. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge numero 1766 di conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18. Dura la reazione dell'opposizione, non mancano schermaglie in aula al Senato tra Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, Alberto Airola del Movimento 5 Stelle e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi attacca il governo, non potrà più contare su un'opposizione servente, quelli dell'esecutivo sono solo annunci, ci costringono a non votare il decreto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla cronaca dell'epidemia. Si conferma il rallentamento dei contagi in Italia, mentre però continua a salire il numero delle vittime tra i camici bianchi, 100 dall'inizio dell'epidemia. Controlli stradali in aumento si annunciano nel fine settimana. I guariti da coronavirus in Italia segnano il record di 2100 in un giorno per un totale di 26.500. È uscita dal Giovanni XXIII di Bari la bimba di soli 2 mesi guarita insieme alla madre e uscirà domani dall'ospedale di Cremona il 18enne Mattia dopo 2 settimane in terapia intensiva. Non si fermano però i decessi, ieri 542 e si continua a morire nelle case di riposo, altri 12 solo ieri al più albergo Trivulzio di Milano. I medici che hanno perso la vita salgono a 100, altri 5 in un giorno. Una diminuzione marcata della curva non c'è ancora, ha detto ieri in conferenza stampa il direttore generale aggiunto dell'OMS Ranieri Guerra, è solo un rallentamento. C'è tuttavia meno pressione sugli ospedali, con 375 ricoverati in meno in terapia intensiva negli ultimi giorni. In vista di Pasqua intanto le forze dell'ordine intensificano i controlli, ieri 286.000 persone fermate e 11.000 1200 sanzionate. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito dai titoli, il presidente del Consiglio Conte, parlando a un'intervista alla BBC, ha detto che con il via libera degli scienziati potrebbero già ripartire alcune attività nel mese di aprile, anche se il calendario delle ripartenze sarà in ogni caso graduale. Ad un mese dal lockdown, il governo, affiancato dal Comitato Tecnico Scientifico, è al lavoro sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese, fa sapere il Premier Conte, il quale ribadisce che la guardia non va abbassata. La comunità scientifica invita alla cautela, l'unica certezza al momento è che le riaperture saranno molto graduali e scaglionate nell'arco di diversi mesi. A ripartire saranno prima le imprese, poi toccherà alle famiglie. In pressing sul governo, gli industriali del nord spingono per riaprire entro maggio, scongiurando così il rischio che l'Italia spenga definitivamente il motore. All'esecutivo si rivolgono anche i sindacati che, preoccupati per la salute dei lavoratori, chiedono invece di fare il punto sulle misure di sicurezza all'interno delle fabbriche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una buona notizia: nel mese di giugno cominceranno i test clinici sui pazienti di un vaccino messo a punto dalla tedesca CureVac. Lo ha annunciato il presidente del consiglio di vigilanza dell'azienda, Jean Stéphane, ad alcuni media belgi. I test avverranno in Germania e Belgio, inizialmente, ha detto, su persone adulte che non sono state contagiate, poi anche sulle persone più esposte al virus come i medici e infine agli anziani. E vediamo come sta evolvendo l'epidemia a livello globale. Sono oltre 1,5 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo, lo riporta la Johns Hopkins University, mentre i morti hanno superato gli 87.000. Per il secondo giorno consecutivo i morti per coronavirus negli Stati Uniti sono quasi 2.000 in 24 ore e sono adesso al secondo posto di questa triste classifica mondiale dopo l'Italia. La Cina intanto ha deciso di chiudere tutti e quattro gli accessi al confine con la Russia per scongiurare nuovi casi importati di Covid-19. In Germania le vittime sono 2.349 da inizio epidemia. La Spagna invece piange altri 757 morti in un solo giorno, ma sembra vicina alla discesa della curva, come riferisce in Parlamento il Premier Sanchez prima del voto sul prolungamento dello stato d'emergenza per altre 2 settimane. Prolungata la quarantena anche in Francia fino al 15 aprile. Nel paese l'epidemia ha provocato oltre 10.000 morti dall'inizio dell'emergenza, di cui 541 nelle ultime 24 ore. In ginocchio anche la Gran Bretagna, coi suoi 1.000 morti in 24 ore, e il Premier Johnson in miglioramento ma ancora in terapia intensiva. In Colombia il numero dei contagiati supera quota 40.000 con un raddoppio di casi in una settimana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo agli aspetti economici di questa emergenza. Oggi riprendono i lavori dell'Eurogruppo, la riunione in videoconferenza dei ministri economico-finanziari dell'Unione Europea. Ebbene, ieri sera il Parlamento olandese ha approvato 2 risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l'utilizzo del fondo salva stati. Una presa di posizione netta e opposta rispetto alle richieste che arrivano da Italia, Spagna e Francia. Noi non vogliamo che gli altri paesi paghino i nostri debiti. L'Italia ha sempre pagato i propri debiti. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio interviene sulla trattativa in vista della riunione dell'Eurogruppo che riparte nel pomeriggio. Sostiene che la questione sta nel decidere se l'Italia può spendere tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno giovani. Ma nelle stesse ore la politica olandese ribadisce il suo no ai Covid bond, approvando 2 risoluzioni che esortano il governo a non accettare la misura chiesta dall'Italia e a tenere il punto sulla condizionalità per l'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità. Parigi e Berlino spingono sulla mediazione, consapevoli che un fallimento potrebbe avere ripercussioni pesantissime sull'intero sistema. Ma quando mancano ancora poche ore dall'incontro dei ministri delle finanze, le posizioni restano molto distanti. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E allora adesso invece andiamo con la cronaca, e c'è anche il primo caso di reato da Covid. Si era aggiudicato un lotto di fornitura di mascherine allo Stato per 15 milioni di euro e aveva dichiarato che la merce era bloccata all'aeroporto cinese di Guangzhou, però la merce era risultata inesistente. Per questo è stato arrestato un imprenditore di 41 anni. Una puntata d'azzardo giocata sulla salute pubblica, e per questo il giudice per le indagini preliminari Valerio Savio ha disposto l'arresto dell'imprenditore Antonello Ieffi, di 42 anni, con l'accusa di turbativa d'asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo in manette l'imprenditore dopo la denuncia presentata dalla Consip, che ha riscontrato una serie di anomalie nella procedura di una gara da oltre 250 milioni di euro. La gara era stata bandita d'urgenza per garantire l'approvvigionamento di mascherine e dispositivi di protezione individuale, oltre che di apparecchiature elettromedicali, nell'ambito dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Ieffi ha utilizzato la Biocrea, una società agricola SRL, definita una scatola vuota poiché senza dipendenti e sostanzialmente inattiva, per riuscire ad aggiudicarsi la gara bandita da Consip, finalizzata alla fornitura di 24 milioni di mascherine e per intascare 15,8 milioni di euro. Ma dopo l'esposto di Consip alla Procura di Roma e un'indagine lampo, la Guardia di Finanza ha scoperto che quelle mascherine non sarebbero mai arrivate. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mezzo miliardo di persone sono a rischio povertà a causa del coronavirus, lo afferma l'ONG Oxfam, stimando che tra il 6 e l'8% della popolazione mondiale potrebbe scivolare in povertà in assenza di rapidi aiuti. Se le stime si avverassero, si tratterebbe di un passo indietro di 10 anni nella lotta alla povertà e di un ritorno a 30 anni fa in alcune aree dell'Africa subsahariana. E con la cronaca ritorniamo in Italia. Terza notte in mare al largo di Lampedusa per la nave Alan Kurdi con 150 persone a bordo. Porti chiusi causa coronavirus per le ONG, porti aperti per gli sbarchi fantasma. Con il mare piatto sono riprese ad arrivare le imbarcazioni in Italia. A Lampedusa in 3 giorni sono arrivate 158 persone in 3 differenti sbarchi autonomi. Proteste dei lampedusani perché nell'hotspot dell'isola, con questi numeri, non si riescono a mantenere le distanze di sicurezza, distanze che per la verità neppure i lampedusani mantenevano alla manifestazione organizzata ieri in piazza. In 6 poi sono arrivati con un barchino a Teulada in Sardegna l'altro ieri, sempre l'altro ieri a Marsala in Sicilia sono arrivati in 7 su un gommone. Per le ONG invece i porti sono chiusi, hanno trascorso la terza notte in mare i 150 migranti a bordo della Alan Kurdi, la nave della ONG tedesca CI, a cui è stato negato l'approdo in Italia e a Malta per l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto firmato dai ministri De Micheli, Di Maio, Lamorgese e Speranza, la nave si trova a sud della Sicilia, in attesa di sviluppi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora dati economici, quelli della produzione industriale nel mese di febbraio, secondo l'Istat, che è scesa dell'1,2% prima che scoppiasse in Italia l'epidemia di coronavirus con i conseguenti blocchi alle attività. Intanto, secondo lo Svimez, il blocco delle attività che è scattato da marzo sta costando 47 miliardi di euro al mese. La serrata del paese per l'emergenza coronavirus costa 47 miliardi al mese, 37 dei quali li paga il Nord e 10 il Mezzogiorno. A fare i conti a un rapporto dello Svimez, secondo il quale 5 impianti su 10 sono fermi. Nella media nazionale crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione, senza considerare i settori agricoltura, attività finanziarie assicurative e la pubblica amministrazione. Il blocco, sottolinea il rapporto, colpisce con diversa intensità indistintamente l'industria, le costruzioni, i servizi e il commercio, mentre sul fronte occupazione autonomi e partite IVA sono i lavoratori più fragili a rischio povertà e il bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia compensa solo il 30% delle perdite subite dai lavoratori autonomi. Il PIL quest'anno, stima Svimez, scenderà dell'8,4%. Pubblicato intanto in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla liquidità delle imprese, fra le condizioni per accedere ai prestiti, oltre al blocco dei dividendi per un anno e l'attenzione all'occupazione, c'è anche l'obbligo di attività localizzate in Italia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo sempre più vicini alle celebrazioni di Pasqua con le cerimonie che sarà possibile seguire via streaming. Nessuna messa crismale, nessuna lavanda dei piedi. Un giovedì santo del tutto inedito in Vaticano e nel mondo causa coronavirus. All'altare della cattedra, in una basilica di San Pietro quasi vuota, il Papa celebrerà alle 18 solo la messa nella cena del Signore. Stesso orario e stesso luogo domani per la celebrazione della Passione del Signore, mentre non ci sarà la tradizionale Via Crucis al Colosseo. Ma alle 21 si terrà sul sagrato della Basilica Vaticana. Sempre a San Pietro, la veglia pasquale di sabato e la messa di domenica alle 11. Riti a porte chiuse anche nei paesi dove si celebra la Pasqua ortodossa, con appelli delle autorità a restare a casa. Padre Ibrahim Faltas è invece a Gerusalemme. Tutto chiuso, nessuno può uscire. Una Pasqua con le porte chiuse, ma si apre il sepolcro. Per le nostre celebrazioni sempre dobbiamo essere 10 persone. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura una notizia di sport, il Moto Mondiale 2020 potrebbe essere cancellato, lo ha fatto sapere la Dorna, organizzatrice del Circus della MotoGP, spiegando che l'obiettivo al momento resta il tentativo di organizzare la stagione con il maggior numero possibile di gran premi entro l'anno solare 2020, ma l'ultima risorsa sarebbe proprio la cancellazione del Mondiale. 13:14. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Faremo il punto insieme al professor Lavecchia, epidemiologo, che assieme alla Doxa ha cercato di stimare i numeri reali, i numeri che vanno oltre le mezze verità descritte dalle conferenze stampa della Protezione Civile ogni giorno, i numeri quindi veri di quanti siano i contagiati in Italia, numeri che sono calcolati in base a una serie di stime, e ne parleremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, vi aspetto anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza coronavirus. Il presidente del Consiglio Conte conferma possibili riaperture già ad aprile se avremo il via libera degli scienziati. Decreto Cura Italia all'esame del Senato e il governo pone la fiducia. Riprendono oggi pomeriggio i lavori dell'Eurogruppo, Francia e Germania più vicine. Intanto il Parlamento olandese si esprime contro gli Eurobond. Truffa da 15 milioni di euro per la fornitura di mascherine allo Stato. Arrestato un imprenditore di 41 anni, primo caso di reato per Covid. Moto Mondiale, possibile cancellazione per gli organizzatori, è l'ultima ratio, ma non è esclusa. È con noi, lo abbiamo anticipato nel sommario, il professor Carlo Lavecchia, professore ordinario di statistica medica ed epidemiologia all'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, professore. Allora, cerchiamo di parlare con lei dei numeri del contagio, che insieme alla Doxa avete cercato di stimare. Numeri che vadano oltre quelle che sono le verità ufficiali, le verità descritte dalla conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile, che sono, credo si possano definire senza tema di essere smentiti, delle mezze verità. Non nel senso che venga taciuto qualche cosa che non si sa con certezza, perché è stato detto mille volte che quelli sono i dati ufficiali censiti effettivamente dai tamponi, e quindi il numero di contagi e naturalmente poi il numero di ricoverati in terapia intensiva e di decessi. Mezze verità però, perché abbiamo anche capito altrettanto bene, lo dicono tante fonti, lo dicono epidemiologi, lo dicono i dati, lo dicono i sindaci dei comuni che hanno contato le vittime nei loro comuni, i numeri reali alla fine si riveleranno sicuramente maggiori. Professor Lavecchia, che studio avete condotto, che tipo di ricerca avete condotto insieme alla Doxa per cercare di andare oltre questa mezza verità? Allora, cominciamo dai numeri comunicati. L'unico numero che ha una qualche affidabilità è il numero dei decessi, che ieri sera era 17.669. Noi sappiamo attraverso i comuni che in giorni particolarmente di crisi e in aree come la Bergamasca questi numeri sono stati sottostimati semplicemente perché non è stato fatto il tampone al gran numero di soggetti morti. Quindi l'idea che noi abbiamo che ci sia una sottostima attorno al 15-20%, che il numero reale di decessi stia attorno ai 20.000 piuttosto che intorno ai 17.600. Però diciamo questo è un numero relativamente affidabile. Gli altri numeri comunicati in realtà non dicono granché, perché il numero dei positivi è semplicemente il numero dei ricoverati. Perché oggi in Italia se un soggetto ha sindromi, ha sintomi tipo Covid, viene lasciato a casa e nessuno lo registra. Viene ricoverato soltanto quando ha sintomatologia grave, questa è la ragione dell'elevata letalità dei nostri casi, e registrato solo allora, più c'è qualche tampone fatto in maniera non organizzata. Cioè, quindi a parte che viene fatto, professore, per quello che sono la sua esperienza, viene fatto a partire dai casi ospedalizzati, credo, si va a ritroso. Che a loro volta riflettono la disponibilità di posti in ospedale, perché questa è una malattia che dovrebbe richiedere l'ammissione in ospedale per tutti coloro che hanno febbre oltre 38,5 per più di due giorni, ma noi non abbiamo i posti e non li ricoveriamo. Quindi quel numero lì riflette solo i posti disponibili in ospedale e ancora di più i ricoveri in unità di cura intensive, quelli sono semplicemente il numero di posti disponibili in Italia, perché c'è una grande richiesta e poca disponibilità. Detto questo, noi abbiamo tentato di ottenere una stima attraverso il questionario di quanti soggetti in Lombardia e in Italia possono avere avuto contatto col Covid nel mese di marzo, dal 7 marzo in poi, e quindi abbiamo somministrato, in realtà la Doxa nella sua indagine settimanale, l'Omnibus settimanale sul campione rappresentativo di italiani, ha somministrato un breve questionario chiedendo i sintomi Covid e la presenza di febbre oltre 38,5. Il risultato è che il 14,4% degli italiani e il 18,3% dei lombardi riportano questi sintomi. Allora, da queste percentuali bisogna togliere coloro che non hanno avuto Covid. In marzo non c'è più l'influenza, però ci sono vari virus. Stava calando l'influenza stagionale, però uno può essere anche se preso un raffreddore. Esatto, uno può avere raffreddore. E quindi la stima inferiore che noi abbiamo dato è il 10% degli italiani e il 15% dei lombardi. Quindi il 10% degli italiani, il 15% dei lombardi, secondo questa prima vostra valutazione, è venuto a contatto con il coronavirus. Potrebbero essere venuti a contatto. Però c'è una stima superiore, perché noi sappiamo che molti Covid danno sintomi lievi o inesistenti, e quindi potrebbe essere anche il doppio di questi. I cosiddetti asintomatici, giusto? I cosiddetti asintomatici. Allora, per capire, fermiamoci un attimo qua per intanto concentrare attenzione su questo. Allora, abbiamo una prima curva che è quella dei decessi, che sono dati certi, però voi dite già lì si può calcolare una sottostima di quelli reali. Poi ci sono i ricoverati, e anche quello è un numero che dipende dal numero di posti in ospedale. Ci sono poi i positivi che derivano dai tamponi che sono stati fatti partendo dalle persone ospedalizzate. Sopra queste curve c'è una curva ancora più alta di sintomatici che si sono accorti di avere dei sintomi, e questi voi li avete stimati. Sopra ancora c'è un'altra curva che sono gli asintomatici. Complessivamente però la cifra a cui arrivate qual è, professore? Potrebbe arrivare a 10 milioni di italiani e a 2 milioni di lombardi, se noi stimiamo il limite superiore, mentre potrebbe essere la metà di questo nella ipotesi più conservativa. Comunque, in ogni caso, stiamo parlando di milioni di persone, non centinaia di migliaia di casi. È un numero importante da tenere in considerazione. Adesso voglio affrontare con lei anche l'aspetto su come utilizzare questa informazione. Vorrei però solo sottolineare un dato. Che questo sia, diciamo, questa descrizione sia realistica e sia possibile, lo ha detto, per esempio, per quanto riguarda la Germania, la voce ufficiale, che è il capo del Koch Institute, Lothar Wieler, 3 giorni fa ha detto effettivamente questo. I dati reali sono sicuramente sottostimati. Quindi io immagino che anche la comunicazione ufficiale quotidiana della Protezione Civile, dei membri dell'Istituto Superiore di Sanità, arrivi a dare questo tipo di informazioni, perché credo che sia indispensabile per poter affrontare la famosa fase 2, professore, sapere effettivamente quante persone sono state contagiate, perché è possibile dire che queste 10 milioni di persone dovrebbero essere forse i primi che, potendoli testare, controllare in qualche modo, che possono rientrare a fare una vita quasi normale, perché per un periodo di tempo, magari di un anno, però l'immunità dovrebbero avercela, giusto? Il problema è che non abbiamo i test dell'immunità. I test sierologici che abbiamo a disposizione, ve ne sono più di una dozzina che sono sotto test, non sono considerabili validi oggi. Quindi noi neanche con la sierologia, neanche andando a cercare gli anticorpi, possiamo dire lei è verosimilmente immune o no. Questo a oggi, poi magari domani viene fuori un test sierologico valido, specifico e sensibile, ma finora oggi non c'è. Tra poco ne parleremo, tra l'altro. Lei invece come pensa che possa essere comunque utilizzata questa informazione che in qualche modo voi avete ricostruito? 10 milioni di italiani contagiati. In ogni caso dà un'idea di quella che è la possibile immunità naturale, ossia dice che una proporzione della popolazione italiana ampia è entrata in contatto col virus e verosimilmente non si ammala più, e quindi questo riduce la possibilità di trasmissione dell'epidemia. Però sulla famosa fase 2 il punto chiave questi sono tutti elementi utili, però il punto chiave è la nostra possibilità di gestire le polmoniti, perché il problema del Covid, certo, è che un sottogruppo di soggetti dà una grave polmonite che, se non gestita immediatamente, può portare a morte. Se noi fossimo in grado di gestire queste polmoniti, non dovremmo necessariamente fare il lockout, tant'è vero che in Svizzera o in Germania, dove c'è la possibilità di gestire le polmoniti. Ma questo, professore, dipenderà da probabilmente se, per esempio, alcune di queste cure che si stanno utilizzando a base di clorochina potranno in qualche modo prevenire ed evitare il ricorso alle terapie intensive, quindi diciamo alleggerire l'aggravio sugli ospedali. Se no, da che altri dati potrebbe arrivare questa diminuita pressione sugli ospedali, oltre che dal vaccino? I farmaci sono tutti in sperimentazione, ma non possiamo aspettarci nulla nelle prossime settimane. Sì. Quello che risolve il problema è la fase di media intensità, cioè i ventilatori, i respiratori, le cosiddette CPAP, ossia questo problema si risolve quando noi siamo in grado di ricoverare in una struttura ospedaliera, non necessariamente un ospedale, bastano quei saloni in cui si mettono i pazienti, sì, e dove ci sono i ventilatori. Appena un soggetto ha un'insufficienza respiratoria, gli si attacca il ventilatore e nella stragrande maggioranza dei casi viene salvato. E questa è un'indicazione, anche questa sicuramente importante da tenere a mente per il proseguo di questa situazione, per affrontare la cosiddetta fase 2, avremo modo ancora di parlarne. Io intanto la ringrazio, professor Carlo Lavecchia dell'Università di Milano, epidemiologo, e ricordo che insieme all'OCSA ha realizzato questa indagine, e vi ricordo il dato finale: 10 milioni di italiani che sarebbero stati contagiati in base al calcolo che appunto è stato possibile fare. Ci agganciamo però a questa intervista perché la questione dei test, degli anticorpi, bisognerà poter valutare effettivamente se questo numero è un numero realistico di persone contagiate. Lo si farà con i test per gli anticorpi. Rosanna Magnano ha parlato con Alessandro Venturi, presidente della Fondazione X del Policlinico San Matteo di Pavia, che ha messo appunto un test che dovrebbe essere prodotto a livello nazionale dalla Diasorin e quindi essere disponibile in modo capillare su tutto il territorio nazionale molto presto. Il test è stato ideato dai ricercatori del laboratorio di virologia del Policlinico San Matteo, che poi Diasorin ha implementato. Questo test va ad individuare gli anticorpi neutralizzanti del Covid-19. Se io trovo nel sangue della persona questo tipo di anticorpi, io posso avere una patente di immunità. L'altra informazione che ricavo da quel test, laddove invece risultassi negativo, è che io non ho fatto la malattia e quindi mi induce o mi deve indurre a continuare a mantenere dei comportamenti responsabili, che non significa continuare a stare sigillati in casa, ma significa poter riprendere progressivamente e con gradualità le attività in condizioni di sicurezza. Il distanziamento, le protezioni del naso e della bocca e l'igienizzazione delle mani. I laboratori sono già pronti? La strumentazione è già disponibile, il parco macchine è già disponibile in tutti i laboratori di microbiologia del paese. Consideri che in Italia ci sono 500 di queste macchine, in Lombardia ce ne sono una sessantina, ogni macchina su un ciclo produttivo di 8 ore può dare 1000 risultati. Questo significa che uno deve solo acquisire il kit di analisi. Perché i test sierologici già sul mercato non sono adatti? Quelli in circolazione finora erano di derivazione coreana e cinese, quelli rapidi. Noi oggi abbiamo in circolazione degli stock nei magazzini di alcune anche aziende che li avevano acquisiti, ma oggi non si potrebbero più ricomprare perché l'autorità cinese li ha ritirati dal mercato, proprio per la scarsa affidabilità. Torniamo sul crollo del ponte di Albiano in provincia di Massa Carrara. La procura ha aperto una inchiesta. Nel frattempo ci si è anche accorti, pensate, che persino dalle immagini di Google Maps le crepe lungo la strada erano perfettamente visibili, e su queste stesse crepe l'ANAS aveva posato dell'asfalto come una toppa. Daniele Biacchessi. La frazione di Albiano Magra si trova proprio sulla linea che divide la Toscana dalla Liguria, crocevia strategico della Lunigiana, ed è qui che un ponte lungo 330 metri alto 8 è caduto su se stesso. Come è potuto accadere? La costruzione del ponte in cemento armato risale al 1908, ha dunque 112 anni. Viene attraversato dalle strade provinciali 70, ora diventata strada statale 62, gestita per anni dalla provincia di Massa Carrara e dal 2018 passata all'ANAS. 8 agosto 2019 il comune di Aulla chiede all'ANAS interventi urgenti perché il ponte risulta instabile. Risponde il responsabile dell'area compartimentale Vincenzo Marzi dell'ANAS. Non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica. Il 3 novembre 2019 emerge una profonda crepa sull'asfalto, ingrandita dalle abbondanti piogge. Dunque i tecnici ANAS realizzano un sopralluogo con la polizia locale, l'assessore comunale di Aulla, e stabiliscono che non sono presenti condizioni di pericolosità. Poco dopo il comune di Aulla comunica sulle sue pagine web che il traffico non avrebbe subito limitazioni. Quindi tutto bene. Tutto prosegue fino a ieri quando il ponte collassa. Quanto tempo dovrà ancora passare? Quanti altri crolli dovremo ancora commentare prima che il tema infrastrutture dello Stato venga affrontato con le risorse e le competenze necessarie? E va bene, 13:32 minuti, siamo arrivati alla pausa, tra poco le informazioni di borsa, poi torniamo con i titoli, le altre notizie, 349-238-6666, ci risentiamo tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi, emergenza coronavirus, il decreto Cura Italia all'esame del Senato, il governo pone la fiducia. Intanto il Presidente del Consiglio Conte conferma possibili riaperture già ad aprile, se avremo il via libera degli scienziati. E riprendono oggi pomeriggio i lavori dell'Eurogruppo. Francia e Germania sembrano essere su posizioni più vicine, il Parlamento olandese intanto si esprime contro le obbligazioni europee. Truffa da 15 milioni di euro per la fornitura di mascherine allo Stato, è stato arrestato un imprenditore di 41 anni, primo caso di reato per Covid. Moto mondiale, possibile cancellazione per gli organizzatori, è l'ultima ratio ma non è esclusa. E 35 minuti, di nuovo ben ritrovati con Effetto Giorno, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, velocemente, se i dati sono verosimili, scrive Enrico, allora l'incidenza di mortalità della malattia è bassa, effettivamente questo è quanto risulterebbe corretta, questa considerazione di Enrico, dai dati della DOXA, di cui abbiamo parlato prima col professor La Vecchia, che parla di una stima di 10 milioni di italiani contagiati complessivamente, asintomatici inclusi. Un altro ascoltatore dice: non è vero, nei numeri ufficiali viene dato anche il numero delle persone malate ma che stanno a casa, non solo quelli che stanno in ospedale. Non è così, perché ci sono anche quelli che stanno a casa coi tamponi, tamponati che sono positivi e risultano essere a casa in quarantena, ma ce ne sono tantissimi, e questo lo dice la cronaca, lo dicono le testimonianze delle persone stesse, che invece non sono stati assolutamente raggiunti da nessun tampone e hanno però tutti i sintomi del Covid. Poi un altro, ancora velocemente, a proposito della cura precoce della clorochina, dice: non è reperibile su tutto il territorio. È vero, è scarsa, perché c'è una produzione che è basata per un impiego molto più scarso. Adesso c'è un grande bisogno, anche se non ci sono test, validazioni scientifiche. Si tratta di un medicinale che viene usato e adesso fa parte anche dei protocolli, però diciamo non c'è ancora una certezza scientifica al 100% della sua utilità, però sta effettivamente servendo a una cura precoce del Covid. E la scommessa è, come ha detto anche il presidente americano Trump, lo hanno preso in giro, ma è questo: arrivare a produrne di più e a utilizzarlo molto di più, naturalmente, ovviamente dietro prescrizione medica, e tutti i casi sono da valutare singolarmente, ma sicuramente sarà un medicinale su cui si punterà, io credo, nei prossimi giorni. Al momento del punto, il vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Il decreto sulla liquidità è stato bollinato in extremis ieri sera e dunque approdato alla Gazzetta Ufficiale. Ci sono voluti 4 giorni dopo l'annuncio, e che annuncio, sulla potenza di fuoco mai conosciuta. 4 giorni possono essere un tempo congruo per scegliere le parole e verificare gli impatti di un provvedimento tanto rilevante, ma sono un'eternità per le decine di migliaia di imprese che boccheggiano da settimane, condannate da un fatturato a zero. Ora il tempo va recuperato con la fase attuativa, con il trasferimento immediato alle imprese di quei 400 miliardi che per ora sono solo il controvalore di garanzie, facendoli diventare soldi veri a cura delle banche. Colpisce che, mentre è necessaria la più convinta rapidità d'azione, il governo ieri abbia ancora perso una giornata per dirimere lo scontro di potere su chi comandi sulla SACE, che è la nuova cassaforte usata per l'operazione. Di Maio da subito ha cercato di fare della Farnesina un centro di gestione economica, mantenendo le deleghe sull'export, che quando era ministro dello sviluppo economico aveva orgogliosamente rivendicato per quel dicastero. E dunque ora soffre a vedere spostata la governance della SACE di fatto al tesoro. La pandemia sconvolge il mondo, l'Europa rischia di implodere e l'Italia non ha certo bisogno dell'ennesima guerricciola di potere. Semmai c'è bisogno di dare un segnale forte sulla fase 2, sulle riaperture graduali e in sicurezza delle fabbriche e dei servizi. Il paese rischia di non riuscire a riaccendere il motore e su questo il governo sembra ancora una volta in ritardo. Allora, tra poche ore riprendono i lavori dell'Eurogruppo in videoconferenza ai ministri economico-finanziari dell'Europa per valutare strumenti comuni. Se arriverà una decisione, sarà un miracolo, speriamo che sia una decisione comunque positiva per tutti, ma anche per l'Italia. Ne parliamo con Isabella Bufacchi, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore. Ciao Isabella. Ben ritrovata. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti, grazie. Allora, le ultime notizie sono queste. Il Parlamento olandese ieri sera ha votato un no, ha espresso un parere negativo ai Corona Bond, agli Euro Bond, ma anche al togliere le condizionalità al MES, al Fondo Salva Stati. Poi in Germania, dove vivi tu, c'è un dibattito che è testimoniato anche, vogliamo sentire la voce di Di Maio relativa ad una delle due interventi di giornali in queste ore. Uno è quello di Die Welt, che ha detto sostanzialmente l'Italia, in Italia c'è la mafia che aspetta i soldi, e sentiamo la reazione di Di Maio. Io so benissimo e sappiamo benissimo che l'Italia in questo momento è impegnato in una trattativa a livello europeo e quindi non vogliamo fare polemica, però che un quotidiano straniero dica che la mafia sta aspettando i soldi che l'Italia sta chiedendo a Bruxelles è una affermazione vergognosa e inaccettabile. Io spero che il governo tedesco prenda le distanze da quelle considerazioni su questo quotidiano tedesco. E va bene, questo è l'aspetto, diciamo, di Welt, questa frase pesante, la reazione di Di Maio. Però, Isabella, c'è dall'altra parte a controbilanciare anche un'altra firma di un editoriale molto importante sullo Spiegel, che dice quasi l'opposto. Dice: se la Germania dirà di no a questo impegno comune, insomma, sarà una decisione ingiusta. Addirittura scrive gretta e vigliacca. Quindi, insomma, è un paese dove si discute, perché effettivamente non c'è un'unità di intenti questa volta, diciamo, sulla linea dell'austerità. Beh, diciamo che un'unità di intenti, vivendo qui, io la vedo. Ed è quella di una Germania che comunque vuole aiutare l'Italia, una sì. Germania che è rimasta scioccata dalla tragedia umana, oltre che sanitaria, che c'è in Italia. E quindi il dibattito adesso che si sta sviluppando, anche perché l'Eurogruppo ha cominciato a portare anche in Germania delle terminologie nuove, Corona bond, euro bond, MES, un po' come è accaduto in Italia. Ecco, guardando poi a tutti questi strumenti, quello che non è piaciuto, secondo me, all'opinione pubblica tedesca, e alcuni grandi giornali lo hanno messo in evidenza, è il fatto che la Germania abbia detto no, cioè un no categorico, cioè no agli euro bond. È sembrato come voler dire la Germania non vuole aiutare l'Italia, e quindi su questo ci sono stati anche nei giorni scorsi molti editoriali. È interessante questo, Isabella, ma questo lo dici, diciamo, a livello di sensazione di opinione pubblica, di dibattito sui media, in televisione, di l'uomo della strada, cioè come emerge questa sensazione che tu dici? Insomma, la Germania non è rimasta indifferente e adesso l'opinione pubblica non vuole sentirsi tagliata fuori da questa, diciamo, onda di solidarietà che in qualche modo potrebbe arrivare. Da cosa lo trae questa sensazione? Beh, lo trago anche, ci sono stati non soltanto economisti ma anche artisti, ci sono dei commenti che, sui giornali per cercare di aiutare l'Italia, anche i commenti che ci sono in televisione, cioè hanno fatto tantissimi reportage su un'Italia in sofferenza in questo momento. Dopodiché quello che è successo secondo me anche con questo editoriale di Die Welt, che non inizia con la mafia, inizia: attenzione a non dare aiuti senza controlli, senza limiti. Ecco, è qui dove secondo me anche l'opinione pubblica tedesca, che vuole sicuramente adesso l'Italia stare vicina all'Italia, è lì dove arriva il limite, che è molto tedesco e che loro applicano anche a loro stessi qui. Sì. Cioè, quando si parla di debito, di risorse finanziarie, la condizionalità, questa parola che non piace in Italia, qui è un modo di essere, un modo di interpretare, cioè, il debito. Cioè, ricordiamolo che qui Scholz, il ministro tedesco, per poter prendere 156 miliardi di nuovo debito, sì, innanzitutto si è dovuto impegnare con il Parlamento a presentare già un piano su come ripagarlo, e poi ha dovuto dire proprio punto per punto questo debito, come verrà speso, perché anche in questa situazione di apocalittica quasi che si vive anche qui in Germania, dire ai tedeschi facciamo più debito noi a casa nostra non è facile. Sì, quindi... qui tu dici la condizionalità è una l'imperativo a che questi fondi vengano spesi nel modo giusto. Poi sai, decidere qual è il modo giusto, se per esempio far ripartire delle imprese o investirli solo in sanità o in settori strategici, questo poi è anche discutibile, è una cosa che arriva però, in seconda battuta. Però Isabella, scusami, ti voglio chiedere una cosa a questo punto. Siccome alcune indiscrezioni dicono che c'è un riavvicinamento delle posizioni tra Francia e Germania alla vigilia dell'Eurogruppo del pomeriggio, alla luce di quello che ci hai raccontato fin qua, quale soluzione intravedi che possa arrivare? Naturalmente col baricentro anche in Germania, perché parliamoci chiaramente, non sarà la Germania fuori da un accordo, questo è inimmaginabile. Come pensi che si possa orientare l'Eurogruppo di oggi? Diciamo che potrebbe prendere questa strada che trova la Germania, la Francia, ma anche altri paesi vicini, e cioè continuare a insistere su strumenti immediati di aiuto, su questo anche l'opinione pubblica tedesca è favorevole, quindi chiamiamolo MES, ma alla fine è una linea di credito immediata che può essere utilizzata, e penso che lì di condizionalità non si dovrebbe parlare, poi vediamo se l'Olanda verrà in qualche modo convinta. Mentre il grande dibattito che c'è qui in Germania su qual è lo strumento principe, cioè quello strumento del futuro, della ricostruzione, sì, dove l'Italia ha parlato di Eurobond, che sono titoli di debito condiviso, ecco, la Germania e credo la Francia con la sua proposta di un fondo si stanno più dirigendo verso uno strumento condiviso attraverso il budget europeo e quindi finanziato attraverso la Commissione, che passa per un fondo che viene con risorse dedicate per la ricostruzione per tutti, quindi una forma di debito condiviso, perché poi alla fine un euro budget metteranno, sì, tutti risorse. E c'è un'intervista oggi molto molto interessante che io segnalerei su Handelsblatt, sì, di Laschet, che è uno dei candidati che viene visto un po' al primo posto, che potrebbe diventare il leader della CDU e anche il cancelliere, e lui ha detto: sono d'accordo che bisogna trovare nuovi strumenti, e quindi va nella direzione di quello che conta, ha detto anche ieri con un'intervista di 20 minuti su Biz Video. E quindi Laschet ha detto: questo nuovo strumento, ok, siamo d'accordo, troviamolo con il bilancio europeo molto potenziato attraverso un fondo. Quindi parola Eurobond, sì, ecco, sparisce la parola Eurobond, ma sì, ho capito. Diciamo la sostanza potrebbe non essere molto diversa, bisognerà poi vederla questa sostanza. In ogni caso, questa potrebbe essere la soluzione. Grazie Isabella Buffacchi da Francoforte, ti saluto, devo dare la linea al traffico, torniamo tra un attimo.